Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, 21 passate da 3 minuti in questo preciso istante. Buonasera ad Agostino Spolaore, buonasera dal mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Benvenuti, ben sintonizzati nelle nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questa è la nostra emittente, anzi in questo momento è la vostra emittente perché la state ascoltando, si chiama appunto Blu Radio Veneto. Fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, va in onda tutti i giorni dalle 21 alle 22.30. Martedì, mercoledì e giovedì dedichiamo questo spazio al live. E questa sera abbiamo una voce straordinaria. Ti vuoi già far sentire? Ciao Andrea. Buonasera Agostino, buonasera Maurizio e buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Ma ti presentiamo tra qualche istante. Allora, qualche dato tecnico perché mi sembra giusto dare per chi volesse poi tra l'altro interagire con noi questa sera. E ci spero, ci conto perché voglio sapere qualcosa anche da parte vostra inerente appunto alla voce e alla bravura della musica di Andrea Celeste. Allora, i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre se volete mandare sms vi ricordo è il 346 23 20 033. Questa sera è una serata particolare, dicevo, quindi vi aspetto anche su Facebook se avete voglia di scrivermi, semplicemente Agostino Spolaore, oppure sulla pagina di Blu Radio Veneto, ne abbiamo due, Blu Radio Veneto è la prima, la seconda è Blu Radio Veneto Rock Wave, poi ancora se volete scrivere nella pagina di Andrea Celeste io leggerò ovviamente i vostri commenti e li passerò in diretta qui e anche le vostre domande se volete chiedere qualcosa. Allora, abbiamo una grande artista questa sera, io sono molto fiero, molto onorato e soprattutto sono felicissimo di avere prima di tutto una carissima amica. Vi voglio un bene dell'anima e sono felice di averla qui in studio, dal vivo, per voi, per me, per Maurizio, per tutti noi, per i nostri ascoltatori, Andrea Celeste. Buonasera. Buonasera Andrea. Per me è un piacere essere qui questa sera. Agostino è fantastico, è lo stesso Maurizio e ci si sente a casa qui. Vedi, io ho una posizione favorevole rispetto ad Agostino, sono sempre nella fossa di leoni, sono dentro la musica, proprio dentro la musica, è una cosa meravigliosa. Poi con una vocalista è ancora meglio secondo me. Oh, mi fa piacere. Anche bene. Perché ce l'ha direttamente. Cominciamo bene allora. Allora Andrea Celeste, intanto ovviamente ci vogliono e sono i nostri benvenuto a te. Blu Radio Veneto ti ringrazia dell'aver accettato l'invito, ovviamente, insomma, e quindi è un piacere averti qui. E non ti fai mancare nulla perché ti sei portato un pianista. Esattamente, è con me Alessandro Collina, che è il mio fedele pianista con cui sto lavorando da un po' di anni. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Ciao Alessandro. Grazie. Benvenuto anche a te. Grazie. Cominciamo questo iter, queste un'ora e mezza fino alle 10:30. Parliamo dell'inizio, Andrea. Come si è formato questo giocare sul buon tempi, sulla tastiera piccolina, quando eri giovanissima, per cercare di incastrare le note, di fare dei pezzi all'inizio? Guarda, all'inizio semplicemente c'erano le mie sorelle che avevano questa piccola tastiera a buon tempi, ma sarà stata forse 2 ottave qualcosa, e mi ricordo che una delle mie sorelle, Sara, spesso ci giocava e io, guardando lei, ho sentito il desiderio di cominciare a provare, a sentire cosa usciva, no, da questi tasti, e soprattutto ho cominciato anche a giocare con le melodie che ascoltavo, quindi cercavo di ripetere ad orecchio quello che sentivo. Cosa sentivi all'epoca, ti ricordi? All'epoca, guarda, devo ringraziare le mie sorelle, certo, anche per questo, ascoltavo tanti Beatles, uh-huh, tanti, e molto i Queen, poi bene, anche i Pink Floyd, avevo tutte e due le sorelle che suonavano la chitarra e cantavano in casa Battisti, bene. Ecco, diciamo che più o meno i nomi più in voga in casa mia erano questi. Però tu sei stata fulminata da un cantante, da Billie Holiday. Sì, guarda, quello è stato un amore però nato improvvisamente e casualmente, perché c'era un mio amico parrucchiere che all'epoca sono andata a trovarlo appunto nel suo studio di parrucchiere, e aveva sul bancone questo disco di Billie Holiday, e io non conoscevo Billie Holiday perché appunto in casa mia non si suonava jazz, non c'era jazz. Era un po' difficile probabilmente. Esatto, io avevo 13 anni, neanche forse 12, e gli ho chiesto se mi poteva prestare questo CD, ovviamente ovviamente non è mai tornato indietro. Ma ce l'hai ancora? Ce l'ho ancora, guarda, è una reliquia. È rimasto, cioè, sono rimasta tutto il pomeriggio folgorata da questa voce incredibile, perché non avevo mai sentito una cosa di così vera e così originale in tutta la mia vita. C'è qualche canzone che ti piace particolarmente di Billie Holiday? Ma guarda, tutte le sue interpretazioni sono uniche, però penso che proprio la prima che ho sentito mi rimarrà sempre nel cuore è The Man I Love, che è un brano di Gershwin, certo, che lei ha interpretato in una maniera incredibile. Tra l'altro la versione che avevo io era una versione live, cioè, quindi con tutta l'atmosfera del jazz, quello vero, no? Lo swing dell'epoca, e quindi wow. Quindi Billie Holiday ti ha aperto la strada, nel vero senso del termine, praticamente, lo spettro totale. Esattamente. Un artista simile, un mito simile, cosa ha potuto coinvolgerti praticamente? Esattamente, soprattutto mi ha fatto scoprire quello che era la vocalità. La voce, ti ha fatto scoprire la voce. Anche se c'è un altro personaggio che ti ha fatto scoprire meglio la voce, che è il tuo maestro. Sì, io ho avuto davvero la fortuna nella mia vita di conoscere questo grandissimo maestro che si chiama Vittorio Scali, ed è la persona che ha tirato fuori da me tutta la voce che io non conoscevo, perché all'inizio si canta molto distinto, e a volte magari si sbaglia anche perché non si sa come respirare, insomma, ecco, diciamo che è tutta una questione istintiva, si cerca di ripetere quello che si ascolta. E lui invece ha fatto un lavoro profondissimo con me di anni, abbiamo lavorato insieme per 4 anni sulla mia voce, e da formato, mi ha formato, mi ha dato tutto, non solo a livello tecnico ma anche a livello umano. È stata una persona, guarda, è proprio ogni tanto sento come la sua voce nella mia testa, no? Con i suoi proverbi, i suoi modi di dire, tutte le cose sagge che mi ha detto magari in 4 anni, e che io però ho avuto modo di scoprire magari più tardi, perché poi nella vita appunto ci sono, certo, succedono molte cose, certo, e io sento la sua voce che dice questa cosa quindi è una persona che davvero mi ha influenzato tantissimo e mi ha dato molto. Benissimo, quindi praticamente quello ti ha portato ad imparare a cantare, a dare un certo senso alla vocalità tua praticamente. Esatto, tutto questo attraverso, tra l'altro, il canto lirico. Il canto lirico, esattamente. Che io non conoscevo minimamente, sempre una delle mie sorelle, che è Sara, che poi nel tempo è diventata... Ma magari ci sta ascoltando anche, magari salutiamo. È possibile. Ciao Sara, da Berlino. Può darsi, assolutamente. È streaming. Esatto. Esattamente. E quindi niente, sentivo lei cantare queste arie di Puccini, però onestamente non amavo assolutamente all'epoca la lirica, ero più attratta appunto dai Beatles. E poi casualmente appunto ho conosciuto il mio maestro e lui mi disse il primo giorno: qui si canta solo così. Io ti insegno a cantare impostato così. Esatto, con la voce maniera. Così e io ho detto vabbè, proviamo. E mi sono ovviamente innamorata perdutamente anche poi del mondo della lirica e di tutto quello che poi si può fare con la voce, perché fondamentalmente poi lui mi ha dato un'impostazione vocale, però poi lo stile lo scegli tu. Certo, quindi, certo, perché giustamente, ma tu non sei innamorata solo della lirica, ci sono tante sfaccettature nel tuo universo sonoro, dalla lirica al jazz al gospel, un po' di tutto. A proposito di gospel, c'è una sorpresa per te. Sì? Eh sì, molto. Posso? Sì, sì, vai. La facciamo subito. Subito, immediatamente. The rain is over and gone, and the winter is passing by. The time for singing has come, and the clouds have parted from the sky. Arise, my love, and come away, for lo, the winter is past, the rain is over and gone, over and gone, my love, come away, my fair one, come away. Tu mi vedi Agostino, vedi? Brava, bravissima. Tu mi vuoi fare emozionare subito? Di prima chito subito, eh. Il gospel è una cosa che mi piace talmente tanto che non hai idea, insomma. Sì, ho presente quanto ti piace. Sì. Infatti ho voluto farti questa sorpresa. Grazie, perché appunto, come ha detto Maurizio, amo molto la musica gospel. Ti sei avvicinata da giovanissima alla musica gospel. Sì, anche lì casualmente, ma io non credo molto alla casualità a questo punto. Nel mio paese, dove ci sono pochissime cose, perché è un piccolissimo paese in provincia di Pisa, il paese appunto dove sono nata e cresciuta, c'era un coro gospel diretto appunto da Massimo Bracci, certo, che è un mio carissimo amico, quindi ormai appunto di lunga data, e con loro ho davvero condiviso dei momenti speciali, tra cui appunto questo brano che si intitola The Rain Is Over and Gone. E poi hai conosciuto una cantante gospel, una cantante grande cantante, sì, di gospel. Sì, che è una vostra quasi, insomma, vicina di casa. Vicenza, da Vicenza. Esatto, da Vicenza. La grandissima Cheryl Porter, certo, una voce magnifica. Ti confido che l'ho contattata. Ah, che bello! Mi fa molto piacere. Sì. Non so se verrà, comunque l'invito c'è. Sì, anche lei è stata una figura molto importante, perché con lei ho avuto modo di approfondire quello che è l'aspetto della storia della musica gospel, del jazz, che è molto importante e che bisogna rispettare. Non è nella nostra cultura, diciamo, la musica gospel, no, e quindi dobbiamo avvicinarci e avere rispetto conoscendo qual è davvero la storia di questo grandissimo popolo. Ma d'altronde il gospel nasce nei campi di cotone, insomma, cioè, sì, da lì, esattamente, cioè, dalla sofferenza e dalla voglia appunto di libertà, certo, e di diritti, certo. Quindi davvero è importantissima, è molto profonda la spiritualità che c'è in questa musica. Solo sai cosa, qui in Italia il gospel è visto come Happy Day. È vero, e un pochino, no? Sì. Sì, sai, qui tutti vestiti con la tunica. Ma invece, esatto, il gospel è vastissimo, c'è, cioè, in quelle canzoni che sono, cioè, Kirk Franklin, per esempio, esatto, sono degli autori che mi piacciono da matti. Modernissimi, tra l'altro, perché Kirk Franklin, che è ormai il re del gospel, riesce a fare un misto tra rap, pop, sì, esatto, gospel, rock, è veramente un genio. Bravissimo. Però diciamo che questo modo di vedere il gospel italiano, insomma, è un modo anche per avvicinarsi. Vorrà va bene anche Happy Day, e poi piano piano si può approfondire. Vorrà dire che ti inviterò a Padova al prossimo concerto di Summertime, verrai con me. Ah, loro sono fantastici, li conosco. Sì, li ho incrociati, assolutamente, ecco, sono stupendi. Sì. Allora, ti porto già dei saluti. C'è Marco, che lui è un grande appassionato di musica jazz, tra l'altro ha ascoltato anche la settimana scorsa Jacopo Jacopetti, ma ci sta ascoltando, ti dà il suo buonasera e ti saluta caramente. Ciao Marco. E poi ancora un saluto lo mando io, che ti stanno ascoltando, sia Francesco da Campolongo Maggiore, che è un paesino qua di provincia di Venezia, e poi da Ezio, che è in provincia di Padova, cioè a Codevigo. Quindi salutiamo, mandiamo, ti stanno ascoltando, ti fanno i complimenti. Tanti saluti. Allora, Maurizio, questa voce la vogliamo far sentire. Sì, ma certamente. Cioè, adesso prima l'abbiamo fatta sentire dal punto di vista del gospel, adesso la facciamo sentire dal punto di vista di Andrea Celeste, al di là del gospel. Cosa ci fai sentire per iniziare questa cavalcata fino alle 22? Guarda, visto che abbiamo parlato di jazz, sì, vi faccio sentire un brano che si intitola It Ain't Necessarily So, che tra l'altro grande, che è il grandissimo Gershwin, appunto, che abbiamo già citato, ed è un brano che io amo moltissimo e trovo molto attuale, perché praticamente nel Porgy and Bess, sì, c'è questo personaggio che cerca di distrarre la nostra Bess, dicendogli guarda che tutto quello che tu leggi nella Bibbia non è necessariamente così, e siccome oggi la nostra Bibbia purtroppo è diventata la TV, e io quando canto questo brano penso non è necessariamente tutto così. Quindi mi piace molto perché lo trovo davvero attualissimo. Ma ce lo fai ascoltare dal vivo? Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my, he fought big Goliath who laid down and died. Little David was small, but oh my, to get into heaven, don't snap for a seven, live clean and have no fault. I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven, live clean and have no fault. I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. No, it ain't. It ain't necessarily so. No, it ain't. It ain't necessarily so. Vedi come si canta Garfield. Vedi come si canta Garfield. Brava, brava. Grazie. Questo è tratto da My Reflection, che è il primo disco tuo. E My Reflection arriva dal gospel, dal jazz, dal rhythm and blues, e quello è l'inizio del progetto di Andrea Celeste. Esattamente. Prodotto da? Da Roberto Vigo, 010 Studio. E con una formazione, una band di tutto rispetto, che poi se vuoi citarla. Se esattamente, ricordi. Guarda, si parte da Dado Moroni, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli, a Gianluca Tagliazucchi, Dino Cerruti, Rodolfo Cervetto e vari ospiti che saluto tutti e ringrazio di cuore per questa piccola avventura che abbiamo trascorso prima insieme. Prima piccola avventura, esatto. Come sei arrivata a questa prima piccola avventura? Allora, guarda, musicalmente... Questo è uscito nel 2008. Esattamente. Inizialmente, guarda, arrivavo da una storia molto importante a livello musicale, quindi diciamo che si chiudeva un capitolo della mia vita in cui avevo sperimentato la musica inedita, perché fino a quel momento io avevo cantato gospel, ma sempre gospel, pop, jazz, ma sempre assolutamente cover. Dopo un'esperienza di musica inedita appunto con dei produttori vari ed eventuali in diversi studi di registrazione in cui ho avuto l'opportunità di lavorare da turnista, ho sentito questa vocazione di cantautrice, ho detto ho voglia di scrivere, proprio ho sentito dentro che avevo da dire delle cose e l'ho fatto, sono nati questi brani e casualmente anche lì ho conosciuto Roberto Vigo tramite MySpace. Esattamente, lui ha sentito un demo dove io appunto suonavo il piano e mi accompagnavo in questi brani inediti e mi ha detto senti, io ho un po' di tempo libero e mi piacerebbe sperimentare una piccola produzione sul versante jazz con i tuoi brani, che ne dici? E io ho detto assolutamente sì. Bene. Io ti devo fare una domanda, Andrea. Beh, innanzitutto, sì. Innanzitutto ti faccio una domanda che te la fa Marco e dice che ha letto che il tuo primo disco, cioè My Reflection, è stato distribuito anche in USA e in Giappone. Esatto. E dice che tipo di successo hai incontrato oltreoceano? Ma guarda, oltreoceano è stato apprezzato molto, soprattutto dalla critica, ecco. E mi ha fatto molto piacere perché, insomma, oltreoceano ci sono dei mostri sacri e quindi... è stata una piccola soddisfazione. E in oltreoceano, questo diciamo la parte USA, poi c'è il Giappone che è molto diverso dagli Stati Uniti, però anche lì insomma è stato molto molto amato perché c'è molta cura e molto rispetto di quelli che sono gli artisti giovani emergenti e soprattutto molta curiosità, e anche lì insomma ecco è stata una piccola soddisfazione perché anche il pubblico giapponese è molto molto colto, quindi è stato bello, mi ha fatto piacere. Comunque questo disco, questo My Reflection, mi ha fatto colpi un po' dappertutto, insomma, anche io nel mio piccolo ti ho conosciuto proprio con quella canzone che è da pelle d'oca. Ma questo è un disco veramente molto molto bello. Io ne approfitto a proposito di quella canzone, che poi magari la sentiremo, di farti una domanda. Sì. Che poi tra l'altro te l'hanno già fatta, ma insomma ce la devo fare anch'io perché me la voglio sentire. Che effetto ti fa? Te l'avranno fatto tutti, ti ripeto, ma che effetto ti fa essere paragonata a Diana Krall? Ma guarda, innanzitutto mi fa paura perché davvero Diana Krall è fantastica, una grande pianista e ha uno swing incredibile. E quindi insomma, ecco, mi fa sentire che devo studiare molto, devo perfezionarmi e devo cercare di mantenere questo piccolo paragone che è stato fatto. Ho visto quell'intervista che gira su YouTube, cioè il collega che ti fa questa domanda, appunto, che effetto ti fa, cioè, esatto. Cioè, sei paragonata appunto a Diana Krall. C'è anche Herbie Hancock che comunque che ti aspetta, sai, se vuoi al piano. Vabbè. Andrea, cosa ci fai ascoltare adesso? Prima però ti dico che già dalle prime note pelle d'oca. I miei complimenti ad Andrea ed un grande abbraccio a te, caro Ago, e al fantastico Maurizio. Grazie. Oh, grazie Maurizio. Grazie. Un abbraccio a te. È Dario. Dario. Parlando di My Reflection, adesso sentiamo il pezzo che hai deciso. Tutta la critica è stata concorda nel dire un disco molto interessante, perché la critica della musica jazz è un po' più severa, difficile a riuscire a trovare d'accordo tutti. Non è così? Assolutamente sì, soprattutto perché comunque diciamo che il mio debutto non è stato fatto con dei brani appunto editi, appunto, o quelli di standard come si fa nel jazz, giustamente. Certo. Il coraggio di fare pezzi tuoi. Esatto, abbiamo avuto il coraggio di fare questi brani inediti, di buttarci e di sperimentare e cercare questo sound, e insomma fa piacere il fatto che sia stato apprezzato, perché insomma per noi è stato davvero coraggioso. Certo. Molta forza, certo, siamo andati controcorrente. Esatto, contro quello che si fa di solito. Esatto, contro quello che si fa di solito. È vero. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Vi faccio ascoltare per l'appunto The Power of Our Love, visto che l'abbiamo citata. Il pezzo più importante di quel disco, secondo te, My Reflection? Assolutamente sì, è un brano a cui sono molto legata, soprattutto perché ha fatto scaturire tutto il resto del disco. Diciamo che il primo brano che ho scritto di My Reflection è stato proprio The Power of Our Love, è stato un catalizzatore, quindi da lì poi sono partiti tutti gli altri brani e insomma poi abbiamo fatto questo demo, e poi tutto il resto è venuto da sé, come vi ho raccontato. È stata la canzone galeotta, giusta questa qua? Esatto, sì, infatti poi ecco, è molto una canzone galeotta perché è una canzone davvero di amore, molto profonda. Possiamo definirla una ballad? Assolutamente sì, una super ballad. Sai che io amo le ballad, non sì, che? lo so. Io Andrea l'ho scoperta proprio con quella canzone, infatti l'ho contattata subito, certo, immediatamente, sì. Ancora quanto? 2 anni fa, Andrea? È un bel po' che ci conosciamo. Forse un anno e mezzo, esatto, un bel po' che ci conosciamo. Poi è stata inserita in una compilation questa canzone. Esatto, una compilation che si intitola Jazz Around Midnight, che è uscita a Hong Kong, in tutta la Cina, quindi ha avuto un discreto riscontro, insomma, ecco, tra l'altro c'erano delle colleghe molto interessanti come Stacey Kent, che è davvero anche lei una cantante, insomma, con la C maiuscola, quindi è stata una bella soddisfazione. E allora, mi raccomando, non cambiate canale, state lì, perché adesso è emozione pura, purissima, come l'ho sentita io, la sentirete anche voi qui a casa, lì a casa, o in macchina, dove siete, insomma, anche al PC, quello dove siete in qualsiasi momento, perché sta per arrivare una canzone che, a dir poco, favolosa, è veramente eccezionale. Si chiama The Power of Love. Per voi, Andrea Celeste, qui a Blu Radio Veneto. You don't know how many dreams I've left behind me. Just close your eyes and see the power of our love. Listen, our hearts can beat as one. Deep inside of you, you know who I am. Just close your eyes and see the power of our love. Stop to shine. Your smile is all I've been dreaming of. Please don't be afraid when I hold your hand. Just close your eyes and see the power of our love. Take me in your heart. Talk to me about the sky. Take me where your world starts to turn. Stop to shine. Non so te, io... Brava, bravissima. Dovevamo anche sottolineare il piano puntuale e avvolgente di Alessandro, che è stata proprio guidata. Alessandro Collina. Grazie. Al piano. Grazie. Proprio guidata nel vero senso, sì. del termine. Sì, sì, sì. Sei da brividi, Andrea. Grazie. Sarà sempre un'emozione cantare questo brano per me. È per me bellissimo sentirlo. Condividerla con voi questa sera. Grazie. Tutto grazie. Dal vivo, 21 e 31, assolutamente live. Questo è Blu Radio Veneto, per chi non lo sapesse, Andrea Celeste ci sta proponendo la sua voce, la sua musica, le sue melodie, ma poi tra l'altro ci sarà anche qualche sorpresa. Io e te abbiamo molti amici in comune, Andrea. Sì. Abbiamo per esempio Alex Derin, giusto? Esatto. Chissà, esatto. Magari ci sta ascoltando, perché ho visto che aveva messo mi piace, magari ci sta ascoltando. Lo salutiamo, Alex, fantastico. Ciao, pronto. Alex. Ma pronto! Caramba! Vabbè, dopo, ciao Alex. Io la chiamo Tele, ma perché affettivamente la chiamo così. Tanto un saluto a tutti voi, e dopo una canzone così bella, così profonda, non è tanto facile parlare, bisogna stare in meditazione per un attimo. però ne approfitto per farti un saluto e darti un abbraccio forte forte con il cuore, come sappiamo noi. Grazie Alex, anch'io ti abbraccio forte, sei fortissimo. Sei e un saluto anche ad Agostino, Maurizio, grazie, grazie. E Alessandro il pianista, che è molto molto bravo. Grazie. Ma diciamo che è Alex Delin comunque, no? Alex è un cantautore davvero originalissimo, per me è anche un amico, quindi è una persona a cui voglio un gran bene e che conosco ormai da 3 anni, lo sto seguendo davvero, ogni volta c'è una nuova canzone, una nuova emozione e soprattutto una voce vera. Davvero Alex ha una voce vera, perché è una persona vera e lo posso dire perché lo conosco. Comunque ti abbraccio forte, Alex. Ti svelo già un segreto, Andrea, sarà qui anche lui, eh? Ah, che bello. Tutto in famiglia. Tutto in famiglia, prossimamente. Alex fa il blues, Maurizio, che ti piace. Bene, bene, bene. Sì, sì. Bene. Lui c'ha una canzone che poi vi invito ad ascoltare magari su YouTube, c'è Barcellona. La mia preferita. Barcellona. Anzi, no, la mia preferita è Il gusto amaro di un caffè. Sì, sì, sì, quella canzone la amo. Devo elencare le tue, siamo qua fino alle 11 di stasera. Comunque, grazie. Volevo veramente fare i complimenti. Se posso rubarvi ancora 2 minuti, fare i complimenti a Cele per il suo lavoro, per la sua crescita, e voglio dire anche una cosa, che da poco tempo fa l'ho ascoltata live con la sua formazione, e devo dire che, a parte la sua bravura, che per me è indiscusso, ma non lo dico per retorica, perché parlano le canzoni, parla la parte dell'autrice che viene sempre fuori, ed è una cosa che io sottolineerò sempre nella sua musica, perché lei è grande anche per questo, ma soprattutto mi ha fatto felice vedere lei sul palco sprizzare gioia e felicità per questo progetto. Stare proprio on stage per lei è importante, quindi c'è, cioè, avanti così. Il tuo ultimo disco è molto bello, lo sto ascoltando in questi giorni. Grazie Alex. Sono qui, ogni tanto ti vedo su qualche poltrona perché c'ha una booklet bellissima, ma al di là di tutto veramente quello che conta è di nuovo l'anima che hai messo e i sacrifici che hai fatto, che io so, questi ripagano. Grazie Alex, sono davvero commossa. C'è una lacrima, Ale, c'è una lacrima, sta scendendo. Sì, sì. Io ho detto la verità. Adesso gli do un fazzolettino. È indiscusso che lei abbia un bellissimo staff, dei grandissimi musicisti, e questo si sente perché nel disco viene fuori. Certo. Ma per me personalmente una grande forza che lei è proprio la sua anima, certo, la sua anima di persona, che comunque so aver lottato e lotta quotidianamente per la sua musica, quindi. Cele, che ti devo dire? Ti voglio bene. Guarda, non so io cosa dire a te, davvero Alex, anch'io ti voglio bene, so che anche per te è così, insomma, no, è una lotta giornaliera, e tu davvero anche sei una persona che mette l'anima in quello che fai e si sente. No, se non, lo sappiamo fare solo così. Ti abbraccio Alex. Va bene, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Veneto, a Dario, a Maurizio. Grazie. E a tutti i radioascoltatori. Ti aspettiamo. Collina, continuate così, siete forti anche nella vostra trasmissione. Grazie. Quindi la voce della notte, Agostino e Maurizio. Un in bocca al lupo a tutti, ragazzi. Grazie. Ciao Alex. Ciao. Piaciuta la sorpresa? Bellissima, davvero una sorpresa questa. Te ne faccio un'altra. Sai chi ti sta ascoltando? Ne abbiamo parlato prima in auto. La mamma? No, non la conosco. Allora io ti dico cosa ha scritto. Dice: Cele, mi regali sempre grandi emozioni, è bello ascoltare la tua storia e la tua splendida voce. Un caro abbraccio ad Agostino e Maurizio, Karen Ciaccia. Karen, adorabile, è una cantautrice stupenda, davvero. È già passata davvero, per questa. Davvero, genovese. Io non so cosa dire, davvero. Tutti questi amici mi fanno emozionare. Karen, ciao Karen. Ciao Maurizio, non lo sai che siamo la radio preferita di Karen Ciaccia? Ah, bene, bene, bene. Sono molto contento di questo. Allora, adesso però, dai, musica. Vogliamo la voce di Andrea Celeste, che ci fa ascoltare cosa adesso? Ma allora, prima di continuare con My Reflection, volevo farvi sentire un brano che è un tributo ad un artista della musica soul che si chiama Minnie Riperton, che stavamo appunto discutendo. Parliamo prima un momento chi è Minnie Riperton, perché molti non la conoscono. Guarda, è una cantante di musica soul che purtroppo ci ha lasciati molto presto. Lei intorno ai 35 anni ha avuto una brutta malattia, ed è la, e quindi se n'è andata presto e molti l'hanno dimenticata, però non noi amanti della musica. Brava. Soul. Ho postato io una canzone su Facebook tempo fa di Minnie Riperton. Quale? Credo Loving You. Infatti stavo per dire, tutti la conoscono, nessuno la conosce per nome, però appena fai Loving you is easy cause you're beautiful, tutti, ah, ma io la conosco. Allora pensati che posso vantarmi di avere anche il 33 giri. Ah, che meraviglia. Io purtroppo ho il CD invece. Sono un po' invidiosa, devo dire. E io invece vi faccio ascoltare un brano che Stevie Wonder, quindi è un doppio tributo, un tributo a Minnie Riperton e al grandissimo Stevie Wonder, che Stevie Wonder per l'appunto ha scritto per lei e si intitola Take a Little Trip. Another trip on a magic carpet ride. Take a little trip through your mind and explore it. Take a closer look at the you're trying to find. You're the one who always wants to have your way. And like the sky, it's you whose feelings change with every day. And you think there's righteousness in all you say. Your mind and explore it. Take a closer look at the you're trying to hide. Take a little trip through your mind and explore it. Take a closer look at the you you're trying to find. You're the one who says the things you don't believe. And when you need to be, you can distinguish you from me. And you think your eyes have overall control. Trip through your mind and explore it. Take another trip on a magic carpet ride. Do-do-do-do-do. Take a little trip through your mind and explore it. Take a closer look at the you you're trying to hide. Beh, hai fatto una cosa difficilissima. Hai fatto una cosa difficilissima, andare su e poi ritornare proprio una scala. E dobbiamo storiamo una cosa, si sente che questo era un pezzo di Stevie Wonder. Assolutamente, perché è la sua impronta, guarda, il suo modo di scrivere, l'armonia che usa Stevie Wonder, esatto. È questa. Dimmi Alessandro, volevi dire una cosa su questo? Sì, è un'armonia incredibilmente jazz, ma la melodia suona pop. Esattamente. E questa è la grande genialità di questo grande compositore, questo autore. Alessandro, che effetto ti fa suonare durante il giorno, diciamo, normalmente? Come ti proponi? Come si propone Andrea? Ma guarda... È difficile, è così difficile. Andrea è veramente un dono. Un dono. No, davvero. E io che sono un po' più grande di lei, in effetti questa cosa la vivo con grande piacere, perché nella musica c'è sempre bisogno di rinnovarsi. Certo. E trovare una persona più giovane di te, e però con tutta questa grande capacità, questa grinta, questa grande musica che è in grado di esprimere, è veramente una grande gioia, è una grande gioia davvero. Ricordiamo che Alessandro Collina, Maurizio, forse non lo sai, ma lui suona anche in Francia, c'è un gruppo, sì. E suona in Italia anche con questi artisti mescolati, insomma. Sì. Un gruppo bellissimo, sì, sì, sì. Ma diciamo che ho studiato in Italia per quel che riguarda la classica, invece il jazz ho preferito andare in Francia e poi da lì ho proseguito. E in effetti spero proprio davvero che adesso Andrea Celeste possa passare anche il confine, perché non solo è pronta, ma è anche un pubblico in grado proprio di apprezzare queste grandi doti, non solo di cantante, ma anche di compositrice, che non vanno sempre di pari passo. È vero, è vero. Poi tu, Agostino, tu non hai visto, io l'ho visto, ero qua nella Fossa dei Leoni, si sono messi d'accordo immediatamente, basta uno sguardo, un tocco, un momento. Quello Alessandro faceva in quel determinato momento, quel pezzo là, quel momento del pezzo, e Andrea lo seguiva chiaramente. E questo perché Alessandro è comunque, oltre ad essere un grande musicista, una persona davvero carinissima, è un amico, e quindi c'è un'intesa che va oltre l'intesa la perfetta. Musica. Si è visto proprio da qua, io ho visto, ero qua davanti a qualche centimetro, c'era l'intesa perfetta. È cosa vero, fondamentale. Vero. Fondamentale per suonare e cantare. Sì. Grazie. Allora, dimmi. Io te lo leggo così come sta, Andrea. Sì. Dice questo tuo caro amico, insomma, penso sia, per il modo di cantare e la vocalità così piena, mi piacerebbe molto sentirla cantare accompagnata da una chitarra tipo Joe Pass o Ella Fitzgerald. Penso a un chitarrista contemporaneo come Marc Ribot, che suona una chitarra acustica dal suono sporco ma intenso, riflessivo, dove una voce come quella di Andrea risalterebbe come un raggio di sole a scaldare le note, come un abbraccio notturno. Ma che meraviglia! Meraviglioso. Ha finito così la frase. Mamma te la dovevo mia, leggere. Che emozione! Guarda, nel prossimo disco comunque potrà ascoltare anche della chitarra acustica assieme alla mia voce. Abbiamo usato questo strumento suonato da Andrea Maddalone, che è un bravissimo turnista di altissimo livello. Sta lavorando davvero con tutti i grandi del momento, da Mario Biondi a Renato Zero, e davvero ha fatto un lavoro splendido. E quindi se ascolterai il prossimo disco potrai sentire questa cosa. Tra l'altro con Mario Biondi ha cantato anche Andrea. Sì, sì, ha fatto un concerto, hai fatto con Mario Biondi. Esatto. All'inizio della presentazione c'era sempre quella grande artista gospel. Esattamente, guarda, io avevo 14 o 15 anni, non mi ricordo neanche, guarda, è una cosa. Erano giovani emergenti, lo stesso Mario Biondi. Esatto. E praticamente io avevo conosciuto Cheryl un anno prima, perché era venuta a fare un concerto come ospite del coro gospel in cui appunto io cantavo, no? Diretto appunto da Massimo Bracci. E è successo che dopo un anno che io non la sentivo, mi ha chiamato a casa e mi ha detto: ma senti, ma avresti voglia di venire a fare un seminario di musica gospel una settimana con tutti gli insegnanti americani, e anche di cantare alla cerimonia di apertura? Mm-hmm. E io tipo ho avuto un mancamento, risposto mia mamma, poi ha finito lei di parlare con Cheryl, e ovviamente appunto ho partecipato a questa grandissima festa della musica gospel, una cosa che ha cambiato davvero la mia vita. E lì c'era davvero il fulcro del talento non solo americano gospel da Chicago, appunto tutti gli amici di Cheryl Porter, ma anche il fulcro del talento vocale italiano, perché poi da lì appunto è uscito Mario Biondi, Daniele Perrino, un sacco di artisti, e anche Andrea Celeste. Esatto. Okay. Questo lei. Anche grazie appunto alle lezioni che sono state tenute in questo seminario, davvero, perché non si trattava soltanto di, appunto, di essere a lezione di musica, ma si trattava appunto di respirare l'aria della musica gospel che si respira a Chicago. Esatto. Poi quindi... quando ha parlato prima Alex, che ha parlato al microfono, al telefono scusate, ha parlato che tu sei autrice di canzoni, crei la canzone, è una cosa molto importante, io ho notato questo e lui ha ribadito questo concetto, crei la canzone, come Alessandro giustamente ha parlato, di compositrice, non solamente vocalist, compositrice, e non è semplice, non è facile trovare una che faccia questo e quell'altro, è fatto bene secondo me. Guarda, ti ringrazio e devo dire che questa cosa è nata soprattutto per una questione di mia onestà, sia intellettuale che artistica. A un certo punto ho proprio sentito il bisogno, come ti ho detto prima, di esprimermi a fondo e di presentare al pubblico qualcosa che fosse sinceramente e onestamente mio, e quindi sempre seguendo però l'ispirazione, non riesco a scrivere a comando, ecco, una cosa che non mi piace, e quindi seguendo l'ispirazione mi sono lasciata andare, ho detto posso farlo, certo. E sono nati tutti questi brani e ne nasceranno ancora tanti. Beh, spero. Saranno bellissimi. Grazie. Senti, io ne approfitto prima che mi dimentichi di salutare una persona che non ho ancora la fortuna di conoscere personalmente, ma che è una splendida persona che sta facendo un ottimo, un grande, grandissimo servizio di stampa. Ah sì, Stefania Schintu. E io le mando un bacione grandissimo, quindi a Stefania Schintu e a Giovanni Spinosa, che sono i miei angeli custodi, oltre ad essere i miei addetti stampa, ma io ormai li voglio bene. Lavoriamo da poco insieme, ma sono già splendidi, e quindi un bacio a voi e un grosso saluto. Mi aveva detto che se riusciva a venire a trovarci, ma probabilmente non ce l'ha fatta. È molto impegnata. Quindi... Stefania, se ti stai ascoltando, te la sto trattando bene. Siccome si era preoccupata, trattamela bene. Salutiamo un momento la Martina che si sta ascoltando, che ama particolarmente il tuo genere musicale. Grazie, ciao Martina. Hai un sacco di ascoltatori stasera. Che bello. Li abbraccio tutti, davvero. Spero che tutto quello che stiamo facendo, che la nostra musica possa arrivare dritta al loro cuore. Arriva. Perché è questo alla fine che noi musicisti e cantanti desideriamo. Certo. Semplicemente comunicare queste emozioni e condividerle. E in My Reflection c'è un'intervista, tu hai detto ho lottato, ma ci sono riuscita. Ho lottato, questo è importante. Guarda, ho lottato perché a volte, sai, insomma, cioè, diciamo che io non sono nata in una famiglia di musicisti e quindi non è stato facile capire dove andare, che cosa fare, che genere studiare, e quindi insomma ho lottato perché ho creduto in determinati valori e quindi appunto nell'onestà intellettuale, artistica, che secondo me un musicista minimamente deve avere, e ho cercato appunto di presentarmi per quello che sono e di non copiare, insomma, esatto, ecco, che non è mai facile perché comunque ovviamente siamo influenzatissimi da quello che ascoltiamo, quindi ovviamente si trovano sempre dei riferimenti alla musica conosciuta, certo, insomma, certo. Però ecco, cerco di fare del mio meglio per esprimermi a fondo. E adesso ascoltiamo qualcos'altro, lo dobbiamo sfruttare già. Sì, che... certamente abbiamo ancora più di 40 minuti abbondanti. Ma noi siamo amanti del live, Andrea, cioè più suoni dal vivo più ci fa piacere. E anche noi siamo amanti del live, noi non vediamo l'ora di suonare. Io e Alessandro vogliamo sempre fare Alessandro questo, che ha molte frequentazioni francesi in Francia, amano particolarmente suonare dal vivo. Alessandro, cosa dici? Sì, diciamo che c'è proprio un'attenzione anche nei confronti dei nuovi talenti, ci sono degli spazi. Adesso non vorrei fare una critica per l'Italia, però devo proprio ringraziare, perché una radio di questo tipo che dà la possibilità, opportunità a dei giovani ma di grande talento di esprimersi non è facile, ecco, diciamo, purtroppo è sotto l'occhio di tutti la grande crisi che ci sta attraversando. Quindi la Francia è un paese che crede ancora nella cultura, nella musica, e quindi gli spazi sono tanti. Meno male, per quello che in effetti io anche come edizioni, come gruppi, diciamo così, come produzioni, cerco proprio di muovermi proprio all'interno della Francia, anche proprio per un discorso di professionalità, di come tutte le cose vengono organizzate. Non voglio togliere all'Italia, però di certo a volte ci dovrebbe essere più scambio, ecco, più imitazione. Certo, certo. Andrea, Allora ti confermo che Stefania ti sta ascoltando. Ha scritto adesso nella bacheca di Facebook e dice: ciao Agostino, è ovvio che vi stiamo ascoltando, un abbraccio alla nostra Celeste, un saluto ad Alessandro e un affettuosissimo saluto a tutti voi della radio. Grazie. Ciao Stefi. Stefania, ti aspettiamo qui la prossima volta, va bene? Un bacione grande grande da Agostino e da tutta Blu Radio Veneto, ovviamente, anche da Maurizio. Vi ricordo i nostri numeri telefonici prima di ascoltare ancora la voce di Andrea Celeste. Quello in studio è lo 049 875 6423, e invece per quanto riguarda i vostri SMS il 346 23 20 033. Avete capito che se volete chiedere qualcosa ad Andrea, lei è disponibilissima, vi risponde alle vostre domande e ai vostri dubbi, se ne avete, insomma, in merito. Esatto. O anche qualche delucidazione, insomma. Andrea, sei pronta allora? Sì, assolutamente. Sono pronta per presentarvi un brano, anche questo davvero molto importante, è sempre emozionante per me. È un brano che ha scritto Dado Moroni, grandissimo pianista jazz a livello internazionale, con cui ho avuto il piacere di collaborare e a cui io ho avuto l'onore di aggiungere il testo e di registrare appunto in questo album che si intitola My Reflection. Il brano si intitola Real. Blu Radio Sera. And light, release your dreams. There's so much more to know about life. Free your mind from fears and doubts. I want you as you are. I want to share my world with you. There is nothing wrong if you believe in love. Don't hide yourself away, please stay. There is too much anger in this world, so let's take a chance to live love right again. Everybody knows that life is hard sometimes. We were made to fight and be strong. There is no tomorrow to wait. Take your fantasy and make it real with me. Paint your life with colors and light. Release your dreams. There's so much more to know about life. Free your mind from fears and doubts. I want you as you are. I want to share my world with you. With you. Life is hard sometimes. We were made to fight and be strong. There is no tomorrow to wait. Take your fantasy and make it real with me. Light, release your dreams. There's nothing to lose inside. No one can take your love away from you. I want to share my world. I want to share my world. I want to share my world with you. Ti vedo estasiato. Sì, perché mi è venuto in mente questo, che la facilità di andare di salire e poi di riscendere senza nessun problema, senza nessuno sforzo. Ma vedi? Vedi? Vedi. Così è, c'è poco da fare. Grazie ragazzi. Poi chiaramente dobbiamo sottolineare il grande pianismo di Alessandro. Questo è vero, il suo è un gioco, gioco sui tasti è importante, è fondamentale. Andrea, ti faccio una domanda così un po', non ti chiedo dei vari artisti il tuo parere, ma insomma in generale di Sanremo, tu ci andresti? Ma assolutamente sì, guarda, perché comunque è un palco a cui tutti noi aspiriamo, molti non lo vogliono dire, però io lo dico molto onestamente, io parteciperei molto volentieri a Sanremo perché è la manifestazione che più è amata in Italia per quanto riguarda la canzone italiana, e quindi sarebbe un momento davvero magico in cui poter parlare a tutti gli italiani, lo vedrei davvero come un momento supremo. E quindi mi piacerebbe davvero molto. Beh, no, era solo una semplice curiosità, perché sai, visto le tante critiche di quest'anno, che si è parlato più di Celentano, di Belen, sì, piuttosto che della musica, insomma, quindi... Beh, insomma, è sempre comunque uno spettacolo televisivo, sì, quindi bisogna accettare i pro e i contro. Comunque c'è sempre la musica italiana, che sia cambiata rispetto a tanti anni fa, insomma, questo non si può mettere in dubbio, però rappresenta quello che c'è in giro. Magari forse non quello che c'è forse proprio nei club, nei teatri, però comunque rappresenta delle tendenze, quelle sono. Certo. E cosa facciamo? No, parliamo un momento, abbiamo parlato di My Reflection, andiamo leggermente più avanti, parliamo di questo disco che tu hai fatto con Andrea Pozza. Chi è Andrea Pozza? Importante. Andrea Pozza è un fantastico artista di jazz, un pianista di Genova. Ci siamo incontrati casualmente in studio di registrazione, ci siamo conosciuti e stavamo appunto, come ci si conosce nel jazz, ci si mette subito a suonare, ecco. E quindi scherzando è passato il mio produttore Roberto Vigo e ha detto: ma perché non facciamo un disco di jazz? Ah, basta mettere i due microfoni. Solo piano e voce. E io e Andrea ci siamo guardati e abbiamo detto: ma sai che? Ma lo facciamo proprio. Tu hai detto una cosa giusta, che aveva detto Jacopetti anche l'altra scorsa settimana. Ci mette assieme, si fa subito, si suona assieme. È naturale. È naturale per i jazzisti, vero Alessandro? È naturale, 100%. Sì, è vero, anzi, proprio la magia nasce proprio da questo incontro immediato. Esatto, in questo incontro immediato, perché diceva Jacopetti l'altra volta che è venuto, io avevo sentito il gruppo, la sera stessa sono andato sul palco e gli ho detto: ragazzi, suoniamo assieme. Esatto. Beh, anche Alessandro mi diceva come si sono conosciuti con Jacopo, mi diceva appunto che è stato veramente... Sì, è una jam session in Francia. È quello, cioè non, suonare jazz non ha nessun confine, nessun paletto, si suona e basta. Esattamente, è proprio una musica spontanea, per questo jazz che è sempre in evoluzione. Assolutamente, assolutamente. È una musica appunto sempre in evoluzione proprio per questo motivo, perché ognuno la rappresenta come più la sente, quindi è proprio bella per questo. Andrea, ti porto i saluti di Maria Stella e di Anna Elisa, che ciao, ti stanno ascoltando. Ciao ragazze, un abbraccio. Una so che è in Puglia, l'altra non lo so di preciso. Che insomma, bella la Puglia, mamma mia. Un bacio a tutti. Ecco, quindi sono ansiose di sentire la prossima canzone, dicevano. Cosa c'è, cosa c'hai in scaletta parlando, esatto, parlando di questo disco con Andrea Pozza che si chiama Enter Eyes. Esatto, abbiamo pensato con Maurizio di far ascoltare un brano che è appunto la cover di Blackbird dei Beatles, ed è un brano meraviglioso perché parla appunto della segregazione razziale. Esatto. E quindi è sempre legato al gospel, quindi alla tradizione di questa magnifica musica. Per me è stato proprio bello. Che poterlo... difficoltà hai avuto a prendere un pezzo di questa statura, di questa pesantezza? Guarda, anche se è un pezzo meraviglioso, ma è pesante. Esatto, sembra molto leggero, ma è pesantissimo in verità, perché il testo è proprio pazzesco. Cioè, dice Blackbird, Paul McCartney. Esattamente, esattamente. Adesso tu è il tuo momento di volare, di spiccare il volo, no? Perché tu hai sempre desiderato, no? Quindi appunto dice, hai sempre lottato per avere i tuoi diritti e adesso è il tuo momento, adesso vai e vola. Beh, l'approccio, insomma, ecco, è stato inizialmente un po' di paura, perché tu, accidenti, stiamo andando a prendere proprio un mostro sacro. E poi però ho pensato, però lo posso fare anch'io, ecco, posso rappresentarla come più la sento, e quindi ho cercato di essere più semplice possibile nel modo di cantare, per appunto valorizzare quello che è il testo e il significato di questa canzone. Ve la facciamo ascoltare appunto da Enter Eyes, con il pianismo di Andrea Pozza. Okay. Stanno ascoltando anche dalla Sicilia, Maria Stella. Un saluto, Maria Stella, e un saluto a tutta la Sicilia, anche quella è una terra magica. Ok. Yum. my reflection. I can't read your silence. You're my reflection. Through your tears, I feel the pain you leave singing in the dead of night. Take this sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Radio Sera. Non potevo non fare sentire My Reflection. Mi pare giusto, mi pare giusto. Abbiamo deciso così, abbiamo cambiato la scaletta all'ultimo momento, però poi è arrivato anche Blackbird. Sì. Io colgo l'occasione per salutare Gennaro Alfano, che è il coautore di questo brano e anche un mio carissimo amico, davvero una persona che mi ha supportato fin dall'inizio e mi ha spinta a credere in quello che stavo facendo, quindi nei brani che avevo scritto. Quindi gli mando un grosso abbraccio. E un grosso bacio, ciao Gennaro. Andrea, se vai in un'isola deserta, cosa ti porti di musica? Tre dischi ti lascio, via. Tre dischi, accidenti, interessante questa. Beh, Lady in Satin sicuramente di Billie Holiday. Poi vediamo, mi porterei sicuramente una mega raccolta dei Queen, perché è impossibile scegliere. Sono tutti belli i loro dischi. E poi fammi pensare un altro pochino, vediamo, mi porterei forse anche Sade, però se porto Sade escludo troppe altre cose, insomma, forse Maria Callas, non so, mi piace tutto, quindi è difficile, però va bene, insomma, ecco, queste tre vanno bene. Alessandro, vai. Ma io sicuramente Bill Evans, l'integrale. E poi sicuramente anche questo astro nascente, cioè che ormai è, diciamo così, un pianista molto affermato, che è Brad Mehldau, che per noi europei rappresenta veramente ancora un qualcosa da scoprire, e sul piano proprio anche dell'uso dei ritmi. Gli americani sono sempre più avanti in questo linguaggio di improvvisazione. E poi come terzo disco qualcosa di Bach, perché io sono grande appassionato anche di classica, per cui tante cose di Glenn Gould me le ascolto sempre volentieri. Benissimo, soddisfatto le tue certamente le mie idee musicali. Bach è una cosa fondamentale anche per i musicisti rock. Io ricordo i Nice quando riprendevano i pezzi, che te ha messo quando riprendeva Bach i concerti brandeburghesi fatti dai Nice, era una cosa meravigliosa. All'epoca si parla dei fine anni 60 e c'era quel modo di prendere le cose, però non è che erano delle cover, erano dei rifacimenti totali. Il pezzo di Bach, i concerti brandeburghesi c'era, però poi Emerson e company lo allargavano all'inverosimile. Sì, un'opera proprio. Sì. Andrea, ti porto i saluti di una manager, di un'altra cantante che probabilmente verrà qui a Blu Radio Vento, cioè Sandra. Dice: bravissima, i miei complimenti ad Andrea Celeste. Ciao Agostino, un abbraccio. Ciao Sandra, un abbraccio. Stasera. Che bello, quanti messaggi, davvero. Tra l'altro questa è toscana, Ah, che bello. Siamo con paesane, che non si sarà notato dal mio accento, minimamente proprio. Allora Andrea, i prossimi tuoi concerti. Allora, guarda, la prossima settimana saremo a Genova, appunto, nella mia città, in un concerto alla CLAC in Agorà, e presenteremo alcuni brani di questo nuovo album che di cui si chiama? Appunto parleremo, che si intitola Something Amazing. E poi stiamo programmando il tour di presentazione di questo nuovo album, quindi stiamo lavorando con Alessandro e tutto il resto del gruppo, che saluto. Com'è il gruppo? Oltre ad Alessandro, allora, oltre ad Alessandro abbiamo Riccardo Barbera al contrabbasso e Andrea Marchesini alla batteria, altri due stupendi musicisti. Perfetto. Un bacio a voi. Senti, Andrea, ce lo fai un regalo? Sì. Ci fai qualcosa dal disco nuovo? Assolutamente sì. Sì. Abbiamo preparato delle sorpresine, io e Alessandro. Ah, ecco. E cominciamo con un po' di energia. Questo è un'esclusiva, vero? Mi dicevi. Sì, guarda, è la prima volta che portiamo in radio questi nuovi brani, queste nuove anche composizioni. E colgo l'occasione per salutare Marco Sanna, che è la persona che ha scritto i testi di questo disco. Sì, esatto, che è un genovese che sta a Londra da molti anni. E noi ci siamo incontrati per caso, è nata un'amicizia meravigliosa e soprattutto davvero proprio una profonda intesa. Lui ha davvero capito quello che io volevo esprimere attraverso queste canzoni. Gli mando un grosso bacio. Allora, avete capito bene, in esclusiva per i nostri ascoltatori, per gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, ascoltiamo adesso un'anticipazione, un'esclusiva del nuovo disco di Andrea Celeste, che uscirà quando? Allora, stiamo programmando l'uscita per il mese di aprile, diciamo intorno al 30 aprile, però stiamo ufficiosi ancora. Facciamo lavorare questa Stefania. Esatto. Andrea Celeste con una canzone? La canzone si chiama Here I Become, e parla appunto di una persona che ha deciso di abbandonare una situazione scomoda, e quindi vuole cambiare la propria vita e sta lottando per essere se stessa. Ok. Walking down along the street of fantasy, I look around for something special. No one knows if that can happen just for free. I'm prepared for some adventure. Feel I can find what suits my mind. So many times I think I was blind. If not sure, it's just a thrill. I want to turn this over, turn into reality, as I can't stand still. Oh, I gave so many chances all the way. Even showed you some directions. All I saw was reflections of myself. That is where I learned the lesson. Feel I can find what suits my mind. Not sure, it's just a thrill. I want to turn this over, turn into reality, as I can't stand still. Not sure, it's just a prayer. I want to turn this over, turn into reality, as I can't stand still. Here I become demanding, for I am romantic, no compromising deal. Grey nights are finally over, here I become so weary. Is for real. Ooh, here I become. Oh, here I become. Questo è un pezzo faticosissimo da fare, faticosissimo, però hai fatto benissimo, è molto faticoso. Grazie. Perché vai avanti, cioè vai su, poi vai giù, poi ti fermi, poi riprendi. È molto gospel, davvero, c'è molto del gospel che ho ascoltato e che ho cantato in tutti questi anni. Tanta grinta, si è messo tanta grinta e poi Alessandro ha fatto un tappeto, sennò meraviglioso. Esatto, esatto, grazie. Sei tanto stanca, Andrea? Assolutamente no. Allora facciane subito. Subito un altro, dai. Dai via. Ok, allora adesso... Senza stanchetto, subito, parti subito. Vi presento un brano che si intitola Fascinating Fear. Sempre dall'ultimo? Esatto, dall'ultimo album che si intitola Something Amazing. Ma che onore. Un'altra esclusiva. sound a mesmerizing, shining symphony of colors innocently descending upon me. Looking for an angel, wonder if heaven is just here. Every little sound around is breathing in my ear. How I found this harmony. Am I dreaming reality? And there's still in me a fascinating fear. Something sentimentally conceal. I decided I could be changing what was true, and I made my mind with things to say and do. Stories on a beautiful princess and I lay still. Meaningful reminders of a never-ending dream. Can you just imagine if our world belonged to the hands? Every little second inspiration we could feel. How I found this harmony. Am I dreaming reality? Changing what was true, then I made my mind with things to say and do. Feeling like I say, I don't want to explain, just don't want to be still. Time and time again, I thought I couldn't change, and laid there only dreaming. Feeling like I say, I don't want to explain, just don't want to be still. Time and time again, I thought I couldn't change, and laid there only dreaming. And there's still in me a fascinating fear. Something I can sentimentally conceal. I decided I could be changing what was true, and I made my mind with things to say and do. Let me be romance inspired by a fascinating fear. Io non andrei più via, cioè canzone del genere. Questa è... è tutta un'atmosfera. Sì, questo era un pezzo molto d'atmosfera. Il pezzo precedente, sempre dal vivo, era molto veloce, molto energetico, pieno di grinta. Questo era proprio di intrattenimento, anche se qua l'è un po' accelerato rispetto a quello che ho sentito in anteprima. È possibile, perché dal vivo comunque c'è un altro flow, un altro modo di sentire il tempo, e soprattutto c'è una grandissima libertà tra me e Alessandro di prendere e lasciare le frasi, quindi insomma ci divertiamo così. Prima di salutarci, Andrea, i tuoi dati, cioè nel senso il sito dove si può acquistare il disco, i vari dischi ovviamente. Allora, i vari dischi si possono acquistare su www.andreaceleste.com oppure su iTunes, si trovano in digitale su tutti i relativi poi store digitali di iTunes. Io mi trovo sia con un blog su www.andreaceleste.com oppure mi trovate su Facebook a www.facebook.com/andreacelestemusic o altrimenti su Twitter, twitter.com/andceleste. MySpace? MySpace anche con Andrea Celeste Music. Perfetto. Sì, sì. Dobbiamo ringraziare anche la Patrizia che stasera ha fatto le fotografie. Un ospite, anche un'ascoltatrice presa, quindi ti abbracciamo davvero, grazie. E quindi le foto questa settimana le ha fatte lei. Allora, sono le 22:26, è arrivato il momento di salutarci, purtroppo, perché il tempo vola, ma dobbiamo lasciare lo spazio a Alberto che con la sua classifica di musica rock, e la sua musica rock ovviamente, che andrà avanti fino alle 24, sempre qui su Blu Radio Veneto. Prima però è doveroso, Andrea, ringraziarti veramente di cuore. Io invece vorrei ringraziare voi per averci ospitato, e poi vorrei ringraziarvi anche a nome di tutti i cantautori e i musicisti indipendenti per quello che fate, perché è davvero nobile, perché voi non soltanto ci ospitate, ma voi proprio cercate il talento, e questa è una cosa che davvero noi indipendenti apprezziamo moltissimo, e vi ringrazio a nome di tutti loro. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, Maurizio, Agostino, per la vostra ospitalità, Blu Radio Veneto, per supportarvi e supportare appunto grazie questa causa, e ringrazio Alessandro, il mio fedele compagno di viaggi, grandissimo musicista davvero. Grazie, grazie, è stata davvero una bellissima esperienza, una bellissima emozione. Alessandro, grazie. Forse lo riavremo qui, con, sì, con la Francia anche insieme. Bene. Ma anche Andrea Celeste. Anche Andrea, Andrea Celeste. Sì, sì, sì. Grazie, grazie a tutti, davvero. Ti aspettiamo per un'altra volta, Andrea. Ma assolutamente, guarda, veniamo a presentare, a cantare tutto il disco, veniamo. È ufficiale. E veniamo questa volta con Stefania. Stefania, mi raccomando. L'ha promesso lei, e io non c'entro, abbiamo stampato la promessa, quindi avremo di nuovo Andrea Celeste qui in studio, e sarà ancora una serata memorabile, bellissima e emozionante come questa. Dobbiamo dire anche che tutti i live sono organizzati dal nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, che adesso arriverà fra qualche momento, che l'idea dei live parte da lui praticamente. Grazie Alberto, grazie davvero. Io vi do l'appuntamento a quando? Non lo so. Io dico solo il mio, allora, perché poi c'è un altro. Sì, tu devi dire solo quello di giovedì. Giovedì. Allora, intanto io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo. Ci sarà una cantante che viene da Bologna, un'altra bravissima cantante, un'altra grande voce. Si chiama Francesca Romana Perrotta, e presenterà il suo disco nuovo, Lo Specchio. E anche lei canterà dal vivo come Andrea. Come Andrea. L'appuntamento è giovedì prossimo. Intanto, per stare con le parole di Andrea di poc'anzi, quando diceva che noi cerchiamo i talenti, anche Francesca Romana è una grande talento, una grande artista, che forse anche tu, Andrea, conosci magari. Guarda, non la conosco adesso, ma la conoscerò sicuramente giovedì prossimo, perché sono una vostra appassionata ascoltatrice. Grazie. Ormai. Bene, grazie, quindi allora. Mi piace sapere cosa andate a scovare in giro. E devo dire che tra l'altro avete una selezione stupenda, perché io ho conosciuto tramite voi Rebi Rivale, che è un artista che mi piace moltissimo. È l'idro di Maurizio. Sì, sì, bravissima. Sì, davvero fantastica. È anche il mio. È bravissima. Allora, con cosa ci salutiamo, Andrea? Ma adesso vorrei salutarvi con una piccola sorpresa. Ho un brano in italiano che è un tributo ad un artista immenso, che è Roberto Benigni, e al grandissimo Nicola Piovani. Il brano si intitola Quanto ti ho amato. Andrea, grazie di cuore da tutta Blu Radio Veneto, da Maurizio, da Agostino, e anche in onore alla nostra grande amicizia. Grazie, Agostino. Un bacio a tutti voi, grazie. Ciao Alessandro. Ciao, grazie mille. Prego. Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto dove andiamo, t'avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale. La stella polare sei tu, mi sfiori e ridi, no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai e non lo sai.